Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti. A fine gennaio la conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera alle nuove linee guida sui tirocini, aggiungendo così un altro tassello all'attuazione della riforma del mercato del lavoro firmata Elsa Fornero, con l'impegno da parte degli enti locali di recepire le normative entro 6 mesi. Tra le nuove regole ci sono limiti precisi di durata del tirocinio e l'obbligo di retribuire lo stagista con un'indennità minima di 300 euro lordi mensili. Ci sono però tante eccezioni nella regola e occorre anche fare molta attenzione sia alla proposta che fa l'azienda, ma anche molta chiarezza su quelle che sono le aspettative del tirocinante, dello stagista. Salva Danaio, in questo nuovo martedì del lavoro, fa il punto sulle novità, senza dimenticare appunto i casi particolari, raccogliendo come sempre le vostre testimonianze e i vostri dubbi in merito. Alessandro Rotaporta, consulente del lavoro, nostro ospite oggi qui negli studi di Milano, benvenuto, bentornato, buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ci collegheremo fra qualche istante con Gianfranco Simoncini, assessore al lavoro della Regione Toscana e coordinatore degli assessori regionali al lavoro. È stata la prima persona, una delle persone che ha trattato la conferenza Stato-Regioni appunto per arrivare al risultato del quale vi parliamo, e più tardi ci collegheremo con Marina Verderaime, presidente di ACTL Servizio Sportello Stage della Regione Lombardia, con per la verità molte ramificazioni anche in tante altre regioni d'Italia. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, i vostri interventi in diretta. Potete anche scriverci al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, oppure se preferite potete animare il dibattito sui social network. Su Facebook siamo all'indirizzo, al profilo salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24. Adesso la borsa. Allora, giornata positiva per Milano, un po' meno per le altre piazze europee, anzi Milano era anche molto più brillante di adesso, è arrivata a guadagnare oltre mezzo punto percentuale, adesso è più 0,31%, abbiamo il risultato dell'asta dei titoli di Stato attesa per questa mattina. Il Tesoro ha collocato senza problemi i 7 miliardi e 750 milioni di euro di bot ad un anno, ma come nelle attese chiaramente che erano determinate dal declassamento che abbiamo subito da parte dell'agenzia di rating Fitch, il Tesoro appunto, dicevamo, ha dovuto offrire rendimenti più alti rispetto all'asta precedente di febbraio. Il tasso di collocamento per il titolo annuale è salito all'1,28% dall'1,09 appunto dell'asta di febbraio. Domani è la volta di BTP a 3,15 anni e di CCT indicizzati all'inflazione europea per altri circa 7 miliardi di euro, complessivamente operazioni per questa settimana da 15 miliardi. Lo spread dopo l'asta è rimasto stabile sui 314 punti base, Milano adesso guadagna lo 0,30%, i migliori titoli oggi acquisti scoppiettanti su Saipem più 5,21%, già ieri più 4%, il gruppo archivia così settimane molto difficili, non dovute a ragioni finanziarie ma ad altro, ma è ritornato al core business, ha firmato ieri una commessa, nuovi contratti offshore in Africa settentrionale e occidentale per oltre $1 miliardo e da ieri il titolo appunto ha ripreso a volare anche oggi più 5,21%. E poi abbiamo Mediaset in rialzo di 5 punti, UbiBanca più 2,30%, Telecom più 1,63%. Oggi c'è un debutto in borsa, la quotazione di Moleskine e le della società che produce i famosi block notice, le famose agendine, quindi abbiamo anche questa notizia appunto a Piazza Affari. E per quello che riguarda invece i peggiori titoli di Milano, un'occhiata molto rapida: Pirelli meno 2,80%, Salvatore Ferragamo meno 2,53%, Fiat meno 1,66%. Per la borsa è tutto, andiamo al tema di oggi, le nuove regole per gli stage. Laureata precaria, zaino pieno di progetti un po' campati in aria. Stop ai tirocini gratuiti. Anche per gli stagisti deve essere previsto uno stipendio, o più precisamente un'indennità di partecipazione. Parola del ministro Elsa Fornero, che nell'ultima riforma del lavoro ha introdotto nuove linee guida per gli stage, che sono state discusse e definite dalla conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio scorso, cui spettava l'ok definitivo. Sono infatti le regioni e le province autonome ad avere competenza esclusiva sulla materia. gli enti locali si sono impegnati a recepire le linee guida nelle proprie normative entro 6 mesi. Il documento prevede il pagamento allo stagista di un'indennità non inferiore a 300 euro lordi mensili. Se questo non dovesse avvenire, per le aziende è prevista una sanzione amministrativa, da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro. Sono stati previsti anche dei limiti massimi alla durata dello stage. I tirocini formativi e di orientamento, diretti a favorire l'ingresso sul mercato del lavoro dei giovani che hanno conseguito un titolo di studio da meno di un anno, non potranno superare i 6 mesi, mentre il tetto è fissato a 12 per le offerte rivolte a disoccupati, lavoratori in mobilità, inoccupati e percettori di ammortizzatori sociali. La retribuzione continuerà invece a non essere obbligatoria per i tirocini curriculari promossi dalle università o dalle scuole e per i periodi di pratica professionale, ad esempio quelli previsti per l'accesso alle professioni disciplinate da un albo. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Mi sono resa conto di aver detto una sciocchezza poco fa: le azioni Moleskin sono state ammesse a quotazione, ma non sono ancora in quotazione da oggi. Quando ci sarà questo debutto ve lo faremo sapere e basta. Allora, per quello che riguarda il tema di oggi, invece, le nuove regole per gli stage, abbiamo al telefono Gianfranco Simoncini, assessore al lavoro della Regione Toscana e coordinatore degli assessori regionali al lavoro. Assessore, buongiorno, benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno. Allora, le regioni hanno una competenza esclusiva su questa materia e quindi possono probabilmente anche da fungere anche da, come dire, catalizzatore delle informazioni per tutti i soggetti interessati a questi stage, che sono sì i lavoratori, magari i ragazzi che hanno terminato la scuola, disoccupati, inoccupati, anche i disabili, ma naturalmente sono delle opportunità importanti, assessore, anche per le aziende. Assolutamente sì, il problema è che la crisi aveva spinto a utilizzare i tirocini e gli stage non come parte del percorso formativo che serve ai ragazzi e alle ragazze che lo svolgono e alle aziende, anche per misurare le competenze di chi potrebbero e vorrebbero assumere. Era diventata una forma per sostanzialmente sfruttare tanti ragazzi e tante ragazze, non facendoli lavorare e non riconoscendogli nessuna retribuzione. Da qui l'esigenza di andare a leggi regionali attraverso anche un quadro di riferimento nazionale che riportassero i tirocini alla propria funzione formativa e stabilissero anche dei vincoli molto precisi per il loro utilizzo. Ecco, questi vincoli sono dei paletti radicalmente nuovi rispetto al passato. Le novità che ha introdotto la riforma Fornero sono sostanziali rispetto al regime precedente, assessore, oppure comunque siamo in linea con un percorso che c'era già nel mercato del lavoro? Diciamolo, intanto qui non c'è una competenza statale, quindi parlare di un intervento della riforma Fornero è un errore. Nel senso, nella legge Fornero fu stabilito un termine nel quale arrivare a linee guida. Sono le leggi regionali che definiscono i vincoli. E tra l'altro, ad esempio, molte regioni, tra cui la regione Toscana, avevano già definito prima delle linee guida proprie leggi attuative. Tra l'altro, credo si possa dire tranquillamente che le linee guida ripercorrono quasi puntualmente i vincoli che abbiamo messo nella legge della Regione Toscana, che sono i seguenti. Intanto stabilire chiaramente che il tirocinio è un percorso formativo, quindi ci vuole prima di tutto un progetto formativo, ci vuole un tutor extraaziendale e un tutor nell'azienda che segua il progetto formativo, che non si possono fare più tirocini per lo stesso profilo formativo, perché non si prende 2 volte la laurea in giurisprudenza o 2 volte il diploma per una certa qualifica, diciamo. Quindi si può fare solo un tirocinio per profilo formativo, che il tirocinio ha una durata molto, molto precisa. La legge regionale, ad esempio, dice che non si possono fare tirocini in aziende che hanno cassa integrazione o che hanno licenziato su profili simili a quelli per i quali si fa il tirocinio, quindi tutta una serie di vincoli da questo punto di vista, e anche l'obbligo di un'indennità da riconoscere al ragazzo, alla ragazza che fa il tirocinio, oltre al fatto di fissare dei tempi molto, molto precisi. Certo, ci sono tra l'altro degli elementi di similitudine anche con l'istituto dell'apprendistato, anche se sono chiaramente molto diversi. Però, assessore Simoncini, volevo sapere quali sono i vantaggi che ha l'azienda, i benefit che l'azienda riesce ad avere appunto approfittando dell'istituto appunto dello stage. Intanto ogni quanti, ci sono anche dei limiti, come dire, numerici, ogni quanti occupati, in che percentuale gli nella legge regionale il fatto che, ad esempio, chi non ha nessun dipendente, salvo che non, ad esempio la legge regionale dice salvo che non rientri nella categoria dell'artigianato artistico, non può fare non può avere tirocinanti, mentre poi prevediamo, c'è un determinato percentuale rispetto al numero di addetti, proprio perché essendo un percorso formativo non ci può essere un percorso formativo laddove non ci sono dipendenti, proprio certo, per evitare che si utilizzi il tirocinio al posto appunto dell'apprendistato, perché poi lo strumento, il contratto di lavoro formativo è l'apprendistato, il tirocinio è soltanto un arricchimento delle competenze personali. Quali sono le vantaggi per l'azienda? Vantaggi per l'azienda è quello di misurare le capacità di un giovane, di un laureato, di una persona qualificata, anche perché tengo a dire che i tirocini si rivolgono a attività di medio-alto livello, ecco, noi non pensiamo e abbiamo teso anche a disincentivarlo, che ne so, il tirocinio per fare il cameriere o quant'altro. Beh, quello c'è direttamente. Quindi diciamo sono proprio vietati, se non sbaglio, gli stagi per mansioni Toscana, a bassissima specializzazione, sì. Sì, sì, in Toscana, perché sì, per questi non è evidentemente necessario. C'è un indirizzo in questa direzione. Quindi fare una prova sul campo, misurare le esperienze, dopodiché le diverse leggi regionali prevedono forme di incentivo anche di tipo diverso. Ad esempio in Toscana noi abbiamo fissato nel gennaio del 2012 nella legge un rimborso minimo di 500 euro per tirocinante mensile, di cui però se l'azienda ne fa richiesto 300 ce ne mette la regione, quindi come elemento di sostegno a questo percorso che vede l'azienda misurare le competenze di un ragazzo, ma il tirocinante anche acquisire competenze. In più noi abbiamo previsto anche, laddove il contratto viene stipulato con il tirocinante a tempo indeterminato, un contributo a fondo perduto di 8.000 euro che diventa di 10.000 laddove si tratta di un cittadino svantaggiato, un portatore di handicap, un cittadino che rientra nelle, appunto questa edizione di cittadino svantaggiato. In più dal mese scorso abbiamo in Toscana anche stabilito che laddove viene comunque dopo un tirocinio stabilito un contratto a tempo determinato minimo di 2 anni, ci sarà con un contributo di 4.000 euro che diventa di 5.000 se si tratta di un cittadino svantaggiato. Laddove invece si trattasse di un contratto part time, a tempo indeterminato o a tempo determinato, questi contributi a fondo perduto sono dimezzati. Quindi insomma è bene anche che le aziende si documentino molto bene, perché a guardare fino in fondo ci sono delle belle opportunità. Esatto, certo, giustamente, insomma bisogna che il mondo del lavoro si muova anche valutando tutto questo. Assessore Simoncini, io la ringrazio molto per averci dedicato qualche minuto del suo tempo di mattinate molto, molto complesse. Grazie e buon lavoro. Grazie a lei, buongiorno. A presto, tutti, Alessandro Rottaporta, vengo a lei. Naturalmente ci mancano ancora 3-4 minuti di tempo prima di andare alla nostra prima pausa. Neodiplomati, neolaureati, disoccupati, inoccupati, disabili, queste sono le categorie che possono effettuare degli stage all'interno delle aziende. Mi veniva però in mente, mentre sentivo ragionare l'assessore Simoncini, per esempio per la categoria disabili, le aziende devono attingere a liste particolari o basta presentare un curriculum e, visto che c'è questa opportunità, magari una persona con difetto, insomma qualunque tipo di problematica, un handicap fisico di qualunque natura, può candidarsi autonomamente in azienda? No, in questo caso bisogna andare a seguire dei criteri particolari, quindi attingere, come accennava lei, alle liste degli iscritti al collocamento obbligatorio e rapportarsi con i servizi provinciali che seguono proprio le procedure del collocamento mirato. Normalmente questi tirocini con questi soggetti appunto disabili avvengono nell'ambito di convenzioni dove l'azienda ha già a monte un obbligo di andare a coprire delle quote perché magari ha determinati limiti dimensionali e quindi va appunto ad ottemperare questo obbligo con dei rapporti che inizialmente partono con la formula del tirocinio e poi si trasformano in veri e propri rapporti di lavoro, perché ricordiamolo, il tirocinio non è un rapporto di lavoro. Stavo intanto cercando di vedere quali domande stessero più frequentemente appunto comparendo sul nostro desktop tra gli SMS. Ho 37 anni, ci racconta Elena, un PhD in ingegneria ambientale conseguito 4 anni fa, non ho ancora trovato uno sbocco professionale. Incredibile, peraltro ci dicono tanto, non fate più determinati percorsi professionali all'università, scegliete anche gli indirizzi scientifici. Cosa deve fare più che essere un ingegnere ambientale? La nostra povera Elena non ha trovato uno sbocco professionale, potrebbe usufruire di un tirocinio nella sua regione? Intanto ecco qual è il percorso che potrebbe fare, vedere se c'è uno sportello in regione che offre queste opportunità a Rotaporta. Ma diciamo che queste opportunità sono tutte presenti sui siti internet delle varie regioni. Nel caso dell'ascoltatrice però questa opportunità le è preclusa perché se non ho capito male sono decorsi 4 anni da quando lei ha conseguito il diploma e invece la normativa e soprattutto l'accordo Stato-Regione di cui parlavamo prima mette come paletto che nel caso dei tirocini di formativi di orientamento questo debba essere attivato entro 12 mesi dal conseguimento del diploma, quindi oltre non è più possibile attivarlo. Cercare un apprendistato da qualche azienda? Se non sono stati compiuti 30 anni sì, però mi sembra che forse ne ha 37, quindi siamo fuori anche purtroppo dall'ambito dell'apprendistato. C'è ragione che non trovano sbocco professionale, la stiamo veramente deprimendo ovunque. Elena, in bocca al lupo per tutto. Nel 2011 sono stati attivati oltre 307.000 tirocini, in leggero calo rispetto ai 311.000 dell'anno precedente. 215.000 le imprese che hanno ospitato uno stage, in aumento del 4,7% rispetto al 2010. Trovare un lavoro stabile con un contratto tradizionale è sempre più difficile e per questo sono sempre di più le persone che cercano di inserirsi o di reinserirsi mettendosi alla ricerca di un'offerta lavorativa di questo tipo. Non solo studenti, quindi, ma anche laureati, diplomati e molti disoccupati o percettori di ammortizzatori sociali. Quando ci si mette alla ricerca di uno stage, però, è sempre bene tenere gli occhi aperti e tenere conto di alcuni buoni consigli. Ci sono molti canali affidabili ed enti appositamente dedicati a mettere in contatto i cittadini con questo tipo di offerte. Appositi sportelli si possono trovare presso le università o rivolgendosi a strutture o associazioni, anche attraverso motori di ricerca online. Nei portali delle grandi aziende è spesso presente una sezione Lavora con noi, che permette di candidarsi. Sarà sempre importante ricordare che perché uno stage sia legale, deve essere garantito da un ente promotore che agisca come punto di incontro tra il candidato e l'azienda, svolgendo tutte le formalità burocratiche che tutelano il tirocinante nella sua esperienza, prima tra tutte la stipula di una polizza assicurativa. Ed eccoci di nuovo in diretta, lo avrete capito, ve lo abbiamo ricordato di nuovo con la nostra scheda stamattina. Nel nostro martedì del lavoro stiamo parlando delle nuove linee guida sui tirocini, gli stage all'interno delle aziende, secondo quanto ha stabilito a fine gennaio la conferenza Stato-Regioni. 800 24 00 24 per raccontarci le vostre esperienze, per formularci i vostri quesiti. Con noi questa mattina Alessandro Rotaporta, nostro consulente del lavoro, abbiamo sentito Gianfranco Simoncini, assessore al lavoro della regione Toscana, e ci ha raggiunto Marina Verderaime, presidente di ACTL, che è l'associazione per la cultura e il tempo libero, regione Lombardia, sportello stage. Ho detto tutto correttamente, dottoressa Verderaime? Buongiorno. Esatto, buongiorno, ha detto tutto correttamente, grazie, buongiorno a tutti. Tra l'altro lei sta schizzando da una parte all'altra dell'Italia in questi giorni, perché questa esperienza nata in Lombardia, per la verità, si sta giustamente, necessariamente un po' propagando e diramando in tutta Italia, perché è necessario appunto mettere dei servizi a disposizione di giovani, lavoratori e aziende per poter fare in modo che domanda e offerta si incrocino nella miglior maniera possibile, dottoressa Verderaime. Esatto, esatto. Infatti noi siamo nati in Lombardia, a Milano, nel 99 e poi abbiamo esteso le nostre attività sul territorio nazionale anche con l'apertura delle sedi. Ne abbiamo in Lombardia a Varese, abbiamo poi la sede a Roma e abbiamo la sede a Palermo, proprio con la logica di aiutare e orientare i giovani ove proprio è necessario, con lo strumento principalmente dello stage. Certo, adesso c'è anche da informare un po' tutti su come funzioneranno i nuovi stage, secondo quanto anche hanno stabilito appunto le nuove regole della Conferenza Stato-Regioni. Esatto, sono linee guida della Conferenza Stato-Regioni, è stato il 24 di gennaio, sono linee guida che dovranno essere acquisite dalle regioni appunto affinché diventino poi legge regionale con le indicazioni precise. Comunque queste linee guida danno delle indicazioni rispetto all'indennità, per cui la possibilità da parte dell'azienda di dare un rimborso, un'indennità di minimo 300 euro al mese, più appunto elementi che riguardino proprio la durata. Le linee guida dicono appunto che per i tirocini di formazione e orientamento, che sono quei tirocini, ricordiamo, per coloro che hanno conseguito un titolo di studio, diploma o laurea entro 12 mesi, lo stage può durare fino a 6 mesi. Mm-hmm. Per invece coloro che sono oltre i 12 mesi dal titolo di studio, ovvero con lo status di disoccupato e inoccupato, possono fare un tirocinio, possono durare anche fino a, certo, 12 mesi. Abbiamo rifatto quindi anche un po' un riassunto di tutti i termini della normativa. Mi interessava sapere, dottoressa Verderaime, io ho davanti a me al computer appunto l'home page del vostro sportello stage. Avete un'area dedicata ai candidati dove questi possono inserire il loro curriculum, aggiornarlo, possono consultare le offerte, possono candidarsi per uno stage. Avete anche l'area aziende. Quali sono le aziende che in questo momento in maniera più accurata stanno cercando questi profili? Ci dia qualche suggerimento pratico per chi è alla ricerca. Fate anche un monitoraggio di questo tipo, questo intendevo. Certamente, allora noi abbiamo sul territorio nazionale 10.800 aziende convenzionate, per cui intersettoriale davvero di tutte le dimensioni, particolarmente piccole e medie imprese, che risponde un po' a quella che è la fotografia del territorio nazionale, e offerte di stage ce ne arrivano quotidianamente da tutte le imprese. Non nascondo che le aree dove abbiamo la maggiore offerta sicuramente è la Lombardia e anche il Lazio, ma stiamo andando proprio con la nostra apertura a Palermo, ad esempio in Sicilia, a sviluppare proprio una cultura dello stage presso le aziende, e ci teniamo particolarmente, e lo facciamo con le associazioni di categoria e datoriali, proprio per diffondere una cultura dello stage prima di tutto tra le imprese. E infatti abbiamo anche nella prima parte della trasmissione con abbastanza fermezza ci siamo soffermati anche sui vantaggi che hanno le aziende nel attivare contratti di questo tipo. Dottor Rotaporta, mi interessava capire, visto che è tutto disciplinato in maniera molto rigida su base regionale, su scala regionale, mi chiedevo, un ragazzo che su Sportello Stage inserisce il suo curriculum, in questo momento risiede in Sicilia, può candidarsi per uno stage in Lombardia piuttosto che in Veneto, oppure è tutto circoscritto in ambito regionale e non ci si può spostare per approfittare del tirocinio? Ma, teniamo conto che stiamo parlando di linee guida, quindi sono linee guida che caratterizzano quelle che dovranno essere le normative regionali, per cui bisognerà andare a vedere la normativa della singola regione dove il tirocinio viene attivato, per vedere se ci siano eventuali preclusioni rispetto alla mobilità dei soggetti. Ammettendo che un determinato numero di stagisti che un'azienda può inserire, ammettendo che non riesca a reperirli tutti sul territorio perché non può aprire anche le sue porte, ovviamente. Sì, se non ci sono vincoli dal punto di vista della norma regionale, non ci sono preclusioni. Teniamo conto che ad esempio ci sono alcune regioni dove bonus del tipo di quelli descritti prima, nel caso della regione Toscana, vengono concessi solo nel momento in cui il tirocinante è un soggetto che risiede nel territorio regionale, quindi bisogna andare proprio a rapportarsi alla normativa regionale. Sì. Andiamo a sentire alcuni ascoltatori all'800240024. Gianluca dalla provincia di Chieti, l'ho fatto un po' lì decantare, aspettare un po'. Gianluca, mi scusi, buongiorno, eccoci a lei. Gianluca, buongiorno. Eccoci, sì. Mi sente? Sì, sì, la sentiamo adesso. Può abbassare la radio, Gianluca, grazie. Ce la possiamo fare? Sì. Gianluca, guardi, il collegamento è pessimo, l'abbiamo fatto aspettare, non so con quale tipo di apparecchio sia collegato, proviamo a ripristinare il nostro collegamento con Marco Lombardo che adesso la richiama. Tiziana dalla provincia di Vercelli, una mamma preoccupata, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per poter fare questo intervento. Grazie a lei. Ma io ho sentito tutte queste belle cose, sinceramente però noi non siamo riusciti a metterle in atto, non so per quale motivo. Mi ero interessata, io e mia figlia ci siamo interessate a questi discorsi degli stage e quant'altro, però diciamo gli studi o le aziende sono un po' dietro consiglio dei loro commercialisti, sono un po' titubanti a queste iniziative. Io le spiego solo in due parole la storia di mia figlia. Si è laureata, ha trovato diciamo una specie di occupazione presso uno studio professionale, ha lavorato presso questo studio, ha prestato opera in questo studio per qualche mese, prima in prova e dopo sappiamo perfettamente come sono tutte queste cose, alla fine della fiera partita IVA. Partita IVA, non ha ancora conseguito l'esame di Stato perché per inciso, tra l'altro, l'esame di Stato quando poi diventa uno scoglio, ci sono sempre le varie motivazioni, oltretutto Politecnico di Torino, alcuni esami di Stato vengono tenuti non da docenti ma da persone, chiamiamole non docenti, che si chiedono come mai tutti questi ragazzi chiedono, vogliono superare l'esame di Stato, ma molto probabilmente non sapranno che se non superi l'esame di Stato non ti puoi iscrivere all'ordine delle varie professioni. Comunque attualmente non ha questo benedetto esame di Stato, ha una laurea in ingegneria magistrale, però abbiamo dovuto aprire la partita IVA come disegnatore meccanico. E in questa maniera è riuscita a trovare qualche opportunità, Tiziana, oppure sì, no? Sì, l'ha trovata nello stesso posto che ci diceva. Esatto, dove aveva iniziato, però logicamente sappiamo tutti che con una partita IVA quali sono poi le spese a cui si va incontro. E certo, insomma, tassazione molto elevata, il lavoratore autonomo ha vita difficile nel nostro paese, Tiziana. Esatto. In bocca. Oltretutto mamma e papà hanno la stessa attività, nel senso, sempre lavoratori autonomi, sappiamo com'è. Perciò tutte queste agevolazioni, secondo me, per questi ragazzi non ce ne sono, ma come mia figlia sono in tantissime. Lo so, Tiziana, infatti. Guardi, noi stiamo continuando a fare questo percorso sulla riforma del mercato del lavoro, ma i difetti che ne troviamo ad ogni puntata, e qua Alessandro Rottaporta vedo che annuisce. Cosa ne pensa della testimonianza dell'ascoltatrice? Ma intanto bisogna fare cultura su questo strumento, perché il fatto che nel caso dell'ascoltatrice, della figlia dell'ascoltatrice, abbia trovato una sorta di ritrosia da parte di aziende o studi non è, diciamo, non si basa su quello che poi invece è la realtà di questo istituto del tirocinio, che è molto valido. Io ad esempio ho avuto anche esperienze dirette nell'ambito della mia attività, e si sono sempre concretizzati con poi dei rapporti di lavoro subordinato. Quindi è uno strumento, soprattutto nel caso dei giovani e nella declinazione di orientamento, che consente quel passaggio dalla scuola al mondo del lavoro. Quindi intanto bisogna fare marketing, diciamo così, sull'utilità di questo strumento. Per quanto riguarda le altre considerazioni, parliamo anche di un mercato del lavoro, quello che stiamo toccando con mano oggi, che comunque scontra delle difficoltà enormi, e questo sicuramente non facilita l'ingresso nel mercato del lavoro. Bello il concetto del marketing su queste novità, su questi provvedimenti. Io mi ricordo solamente che l'unica cosa che è stata fatta per diffondere anche un po' tutti gli ultimi strumenti varati anche dalla riforma per incentivare l'ingresso nel mercato del lavoro dei giovani, lo spot sull'apprendistato di Fiorello, ne abbiamo riso tanto, però io, per carità, con tutto il rispetto per uno dei nostri artisti sicuramente più simpatici e più bravi, però da quello spot non ci si capisce un bel niente di che cosa sia l'apprendistato, che opportunità abbiano i giovani, che prospettive ci sono anche per le aziende che attivano questi istituti al loro interno, insomma, per cui bisognerebbe fare un lavoro un po' più serio, secondo me, anche da parte delle istituzioni. Io sono Alessandro, il nuovo stagista di regia. No, no, no, tu da oggi in poi ti chiamerai Seppia. Sì, vi lascio la pizza se vi serve qui. Vieni al teatro. E René dice che siamo pronti. Sì, devi rimediare subito un test di gravidanza. Dove? Dai, corri. Scrivimi un emotional per Ana. Un che? Quattro righe di riflessione, come ti pare a te, su quello che ti pare a te. Ma lo devi fare alla velocità della luce, sì, capito? Sì. Guarda che ti calcio dal set, se non lo fai, capito? Lo faccio, fai. René. Allora, adesso mi ascoltate tutti, eh? Sono due mesi che io lavoro qui dentro e per voi ho fatto di tutto. Ho lavorato come un bue e va tutto bene. Però se adesso qualcuno di voi si azzarda a toccarmi, occhio, eh? Occhio, perché finisce male, eh? Che mai combinato che ti devo cacciare? Io? Fuori. Ma... fuori. Ma... fuori. E questo era Alessandro, lo stagista sfortunato, perché avete sentito cosa gli è successo dopo essersi ribellato, per essere stato un po' sfruttato nell'ambito del suo, appunto, impegno professionale per il quale era stato richiesto, è stato cacciato fuori. E Alessandro è lo stagista della serie televisiva Boris, molti di voi la conosceranno molto bene, io non l'ho seguita molto per la verità, però insomma abbiamo capito quello che può succedere. Questa esperienza di Alessandro nell'ambito della serie televisiva Boris, Alessandro Rotaporta, ci dà magari lo spunto per poter spiegare ai nostri ascoltatori quali sono le mansioni alle quali uno stagista assunto, contrattualizzato secondo questo termine, non può essere assegnato. Le linee guida parlano chiaro in questo senso, e qui è uno, diciamo, dei punti su cui ha battuto la riforma Fornero, proprio questo input dato alla conferenza Stato-Regioni, e l'accordo cita espressamente che il tirocinio non può essere utilizzato per quelle attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo. Quindi la bassa specializzazione di cui parlavamo assolutamente, prima, per assolutamente esempio. No. Il cameriere non può essere assunto come uno stagista. Esatto, cioè deve esserci proprio un obiettivo, una finalità formativa che è sottesa alla convenzione di tirocinio, e tra l'altro il tirocinante non può neanche essere utilizzato per sostituire ad esempio lavoratori assenti in malattia o quant'altro, quindi deve proprio esserci una maternità percorso. Non può essere sostituita con uno stage, no, non può essere sostituita, e deve esserci proprio un progetto di tirocinio che viene esplicitato nell'ambito della convenzione tra il soggetto ospitante e il soggetto promotore, quindi una finalità nobile dell'istituto. Certo, Marina Verderaime, i portali come il vostro che si occupano di far incontrare domanda ed offerta in questo ambito, come controlla appunto il vostro portale, la vostra attività, l'operatività anche dell'azienda, che possa chiaramente rispettare tutti i requisiti richiesti dalla legge e che non aggiri soprattutto l'azienda alla legge, quindi prenda lo stagista per fargli coprire una maternità, per dire. Ci sente, Verderaime? Pronto? Mi sì, sentite? Eccoci qua, sì, sì, avevamo detto. In più fasi. La prima fase è quella iniziale, arriva l'accoglienza dell'offerta di stage. Viene offerta lo stage, viene fatto l'incrocio con il candidato e noi andiamo a valutare attraverso i nostri tutor gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio. Cioè andiamo a capire quegli elementi che diceva il dottor Porta, che sono appunto o formativi di orientamento oppure proprio di acquisizione di competenze in caso di tirocinio di inserimento e reinserimento. E questa è la prima valutazione che viene fatta su base documentale, per cui proprio sulla descrizione del tirocinio con l'azienda. Ove ci sono delle difformità, delle mancanze, riteniamo che non ci siano gli elementi, il tirocinio non viene attivato. Ove invece con l'azienda riusciamo a capire che può essere fatta un'integrazione, viene integrato e a quel punto viene coinvolto in tirocinante. Certo, tra l'altro per esempio l'azienda che assume secondo un contratto da stagista appunto deve corrispondere a questa un'indennità che abbiamo detto a un limite minimo di 300 euro, se non paga l'indennità, se l'azienda viene appizzicata, ha una sanzione amministrativa ancora più, più impegnativa, vero dottor Attaporta? Sì, è stata prevista una sanzione che va da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro. E poi non dimentichiamo anche che nel caso in cui il personale ispettivo, quindi nell'ambito di un accertamento, dovesse rilevare che il rapporto non si è svolto con le caratteristiche tipiche dello stage, ma come un rapporto di natura subordinata, a quel punto lì l'azienda andrebbe incontro a tutta una serie di sanzioni amministrative e al pagamento anche dei contributi dovuti, perché verrebbe riqualificato come un rapporto di lavoro subordinato. Allora, e a fronte di tutti coloro che invece contestano un po' le modalità di questi nuovi rapporti di lavoro, chiamiamoli così, c'è invece chi ci può raccontare anche un'esperienza positiva. Anna Maria dalla provincia di Padova, buongiorno, rapidissima perché vedo che ci mancano 2 minuti alla chiusura. Eccoci. Sì, buongiorno, sono Anna Maria, ho 30 anni, ho una laurea in chimica conseguita a dicembre del 2009 e la mia appunto è una storia con un finale positivo. E ho fatto una volta conseguita la laurea, ho fatto uno stage tramite l'Università di Padova in un'azienda per 3 mesi, retribuito a 300 euro al mese, al quale è seguito un successivo stage di 3 mesi in un'altra azienda. Lì retribuito 500 euro al mese. Dopodiché finita questa esperienza, nel frattempo avevo mandato il curriculum ad altre aziende, le quali hanno considerato la mia esperienza di stage come un bagaglio positivo per la mia formazione e alla fine sono stata assunta con contratto di apprendistato in un'azienda alimentare della zona qui del Trevigiano. Dopo 2 anni di apprendistato il mio contratto si è trasformato in un contratto a tempo indeterminato. Con grande soddisfazione Anna Maria, in bocca al lupo per tutto, sono contenta che a lei siano andate bene le cose, naturalmente il percorso è stato un po' lungo, tortuoso, però comunque ha approfittato di tutte le opportunità che il mercato del lavoro adesso mette a disposizione. 10 secondi di tempo, mi rendo conto che sono pochissimi, Marina Verderheim, per un ultimo suggerimento a chi oggi avesse voluto cogliere tutti i suggerimenti utili della nostra trasmissione, come approcciarsi al mondo dello stage con serenità. Certo, prima di tutto avere sempre l'idea della propria passione, di quello che si vuole veramente fare, non fare uno stage tanto per farlo, per metterlo nel curriculum, ma fare lo stage che serve al proprio obiettivo professionale, questo è fondamentale ed è veramente a questo punto lo stage il trampolino di lancio per la vita professionale. Grazie molte, grazie, buon lavoro, Sportello Stage, potete trovarlo su internet, grazie ad Alessandro Attaporta, ci risentiremo senz'altro in uno dei prossimi martedì del lavoro, a tutti, buona giornata.